Benvenuti a un nuovo episodio di Micio Segone Ask the Maker, episodio 3. Siamo Sì, qua. è il 3. Sì, basta. Siamo Secondo me è il qua. 15. Eh? Ok, Secondo me è il 15. Sicuro. no, quella è l'altra trasmissione. Allora, Ah. siamo. Fammi finire la frase. Siamo qua, membri della Triforza. C'è Pietro Turri. Ah, eccomi qua. Claudio Turri. Perfetta dentatura anni 80. Mamma mia. E Riccardo 4.0. Ma basta sto 4.0. Ah, scusa, hai ragione. Rixka 4.0. E Zira Ciao, 3. Zira. Ciao, grandissimi. Allora, Non era molto entusiasta oggi. deve essere la malattia che lo consuma. Episodio 3. Oggi avremo un ospite speciale. Visto che non siamo riusciti a raccattare altri game maker. Dalla spazzatura. No. No, dai, dai. Altri game. No, diciamo che gli altri game maker hanno trovato scuse per non partecipare. Quindi, dopo i grandi Dark Leo e Marius, famosissimo game maker, abbiamo dovuto usare la carta Jolly, ovvero una persona che ci tenevamo in serbo per le occasioni speciali, quando c'era un buco. E quindi il buco è arrivato anche troppo presto, visto che siamo solo al terzo episodio. Ma siamo costretti a usare quella persona, che altri non è che. Cosa? Al telefono? Chi è? La Nintendo ancora? Scusate, deve essere per quella storia, causa legale sul fatto che uso Wario nel nickname, che due. Continua a te, chiamalo te l'ospite. Sì, usa anche la Triforza per questo programma, allora, tanto per cambiare. Vabbè, insomma, Wario Punk è andato via, quindi dovremo presentare l'ospite speciale di stasera. Sì, ma volevamo vedere lo sto ospite speciale. No, io lo vedo qui di fianco a me. Signori e signori, ecco a voi Wario Punk 90. No, qual è il numero? 210. 90-210. Wow, è molto emozionante per me essere qui nello studio di Miso Segone Triforce. Non me lo immaginavo così poco professionale. Cosa, Riccardo? Niente, niente. Comunque, Concordo con lui. piacere. Piacere. Piacere tutto mio. Piacere, signora Rixka 4.0. Ecco, vedi, come fai a sapere che sono arrivato tutta la versione Che 4? sei aggiornato. Perché ascolto sempre la trasmissione, sono un vostro grande ammiratore. Saluto anche Gira. Ciao Zira, seguo anche il tuo Ciao, videoblog. grandissimi. No. Seguo anche il tuo videoblog. Dopo devi dirmi come sono quelle Zera skins che hai comprato. Allora, dato che il programma richiede determinate domande in un determinato tempo prestabilito, dovremmo iniziare a sedarti di brutto con domande assurde sui tuoi assurdi videogiochi. Non è così, Rixka? Lei ha in mente qualche domanda in Sì, particolare? facciamo la domanda essenziale. Intanto, che genere di videogiochi crea lei? Lei, lui, tu? Noi. Noi. Beh, io sono il fondatore nonché proprietario della Micio Segone Games Marchio registrato, vero? TM, cioè ovviamente trademarks. No, trademark si risente quando un marchio non è propriamente registrato. Mi Ci aveva detto vuole che lei era molto fiscale. l'R. Nonostante sono un game maker molto prolifico, ma il genere in cui. No, non è vero. Vabbè, il genere in cui mi sono specializzato di più sono le avventure grafiche, ma se mi metto a contare quanti i giochi che ho fatto, non è vero. Perché Ecco. no, 5, sì, 5 su 9, ok, ci siamo ancora. È vero che ho rubato il mio marchio di Space Hunter e Path of the Pumpkin? Sì, e ne vado orgoglioso. Bene. Anche Oximus Prime, deriva da un personaggio che Ma ho fatto. Oximus Prime non vorrei dirle, ma mi ricorda qualcos'altro, un'altra cosa, aspetta. Sì, Oxy di Space Hunter. E basta. C'era. No, c'era l'Optimus Prime. L'Octopus Prime. Che è un Transformer. Octopus è No, è un'assonanza. una specie di polipo. Tutto lì. Primus. Prime determina primo, suppongo. Esatto, poi. Mi aspettavo domande molto più dettagliate, invece qui stiamo già sfociando sulle. Benissimo. Sei una persona ridicola. Quando hai iniziato a creare videogiochi? Allora, i primissimi tentativi. Non dovrei fare due calcoli per ricordarmi l'anno. Comunque andavo in prima, seconda superiore ed era Aveva RPG. l'anno 1400, no? No, beh, sarà stato 2002-2003. Ed era con RPG Maker 2000 e 2003. Ma diciamo che erano dei paciughi da adolescente, come è normale. RPG Maker più che altro serve a iniziare la gente a queste cose, con questi paciughi. Le prime Poi. bestemmie di programmatori, sì. Eh? Sì, Le prime bestemmie di programmatori cominciano lì. facendo gli eventi su NRPG Maker. Poi Esatto. il primo tentativo di avventura grafica è venuto nel 2007 con la Frenzy di Monkey Island. Dopo aver giocato i primi tre Monkey Island di fila, ho voluto provare anch'io a fare un'avventura grafica. Ho visto che esisteva Adventure Game Studio. Ancora la versione 2.7 c'era, 3.0 non era ancora uscita, o forse era uscita ma non l'avevo scaricata, che è più probabile. E ho provato a fare The Wondolus Barn, la versione 1 di The Wondolus Barn, in cui la copertina è trash, è un trash che fa paura, e ce l'ho ancora. Ma purtroppo abbandonai il progetto perché non mi ritrovavo con la programmazione. Dopo 3-4 volte di più, dopo tanti tentativi di fare un enigma che non riuscivo a fare, ovvero quello di Pinoscotto, diciamo, anche perché ho giocato a Drossbar, mi sono ritirato perché non ce la facevo proprio a raccapezzarmi con la programmazione. Ecco, qui a me arriva una domanda in particolare. Ma Dovadulas Barn è presente nelle cartine geografiche scolastiche? Dovadulas, la città. Col Barn o senza? Senza Barn. Hai mai visto Scene della follia di Carpenter? No. Ecco, Dovadulas funziona più o meno come lì. Ho capito. Se il dio di Dovadulas vuole farti entrare nella città, la strada comparirà. Se no, non c'è. Però nelle cartine no, non compare. Solo nelle cartine settecentesche delle mappe del tesoro, quelle sì. Quelli è probabile. Ma aspetta, quindi tu dicendo che Dovadulas Barn, Dovadulas. Dovadulas, vabbè, no, io parlo del gioco. Ah. Dovadulas Barn, gli avevi creato un progetto e dopo l'hai abbandonato, più o meno hai detto, perché ti eri Sì, bloccato un enigma. sì, sì. Ma magari nel vecchio progetto hai lasciato cose che non ci sono nel nuovo, c'erano progetti diversi, una trama diversa. Dovadulas Barn ha tre versioni. Ok, andiamo ad elencarle. Quasi tutte hanno delle cose in comune. Ad esempio il fatto che Pan Commando si traveste da Capitan Fortuna, il personaggio del capitellologo. I personaggi di Stuzzezza, quelli erano in tutte le versioni. Però la storia di base era diversa. La prima versione, quella che proprio aveva due stanze che ci sono, che sono lo studio di database e la stanza dove c'è Manny Calavera. La storia era così: praticamente i Rancid stavano andando in tour in Italia col furgone. Si fermano un attimo a Dovadulas per fare il rifornimento di birra. E i vecchi del paese rapiscono Matt Freeman, Tim Armstrong e Lars Fredriksen per sacrificarli alla divinità del raccolto. La verità della tombola. Sì, della tombola. La divinità del raccolto è quella di grano rosso sangue, vabbè, di Stephen King, colui che cammina in mezzo ai filari. E Capitan Fortuna, per salvare i Rancid, iniziava il suo viaggio. Oh! O cosa? Continua. È arrivato da che gira. Vabbè. Sì, ho visto. Adesso lo invito subito. Lo invitate subito. Allora, succedere Lo dico qualcosa. a te, ovviamente, che non c'entri nulla. Ciao. Ciao, Ciao. bravissimo. Così era. Dato che tu sei arrivato in ritardo, sei in realtà seri, ma non seri. Dobbiamo comunicarti che il nostro collega, quello che c'è di fianco a me, adesso non c'è. Stiamo intervistando Vario Punk adesso. Un'altra persona era. Hai capito? Sì, Una ha voce capito. un po' simile, però. Un'altra persona. Perché è scomparso? Ciao, sono Vario Punk, un temibile game Ok, penso abbia capito. Questo si Magari chiama dovete plagio. scriveteglielo in chat cosa sta succedendo, perché. Sì, è meglio, forse Intanto continuiamo con l'intervista. Allora, Dove eravamo in questo arrivati? momento Questa trasmissione è Ask the Maker. Ok, a posto. Interessante, direi. Io sono il personaggio intervistato di oggi. Mi chiamo Vario Punk e sono un temibile game maker. Non sono il Vario Punk che conosci tu. Ah sì? Sì. Però seguo sempre il tuo videoblog. Ah bene, grazie. Posso farti una domanda? Fai pure. Che immagine hanno le Gera Skins che hai comprato? Non l'hai detto. È vero. Hanno l'immagine di... si chiama London Skyline, Londra fatta tipo con dei graffiti. Ah sì, l'ho presente. Ok. Ora eravamo rimasti, allora stavamo parlando del progetto originale di Dovadura Sbarni. Sì, la versione 2 di Dovadura Sbarni invece, la prima era il rapimento dei Renshi da parte dei vecchi che li dovevano sacrificare. Nella seconda, che aveva anche il filmato intro, che però purtroppo ho perso, se no l'avrei messo su YouTube, un gruppo di delinquentelli del paese stava picchiando i castori del bosco. Tutti i boschi sono i castori, ovviamente. Dovadura si esula dalle regole di qualsiasi cosa. E quando un'astronave aliena si schianta su di loro, donandogli degli straordinari poteri. Ognuno di loro che praticamente cambiava forma. C'era uno diventava una zanzara, un uomo zanzara. Uno diventava... gli cadeva la testa. E il corpo e la testa diventavano due entità diverse. Un altro diventava un uomo di pan di zenzero, gingerbread man. Un altro diventava un uomo sorbetto. L'altro non me lo ricordo. No, non diventava. L'altro diventava un uomo verme. E con i loro straordinari poteri iniziavano a seminare il panico a Dovadulas. E quindi Capitan Fortuna doveva sconfiggerli uno alla volta. Questa versione, a parte l'intro, non aggiungeva niente nel progetto originale. Cioè, non erano state aggiunte stanze o personaggi a livello di grafica. Semplicemente era cambiata l'idea e c'era sto intro. Ma morì subito anche questa. Finché quell'estate, magicamente, Dovadura Sbar, non si sa come, nacque. E fu il delirio. Ok. Voi ragazzi avete domande da fare al signor Vario Punk? Che fine ha fatto Pietro? Ecco. Penso che lui ne sappia qualcosa. Comunque sia stato rapito da nonno e Gianni. È una domanda per me, non lo so. Erano qui da Nintendo che hanno chiamato. Sì, sento di là che parlano di cause legali. Senti le... Sì, sento. Comunque c'è stata un'inchiesta. Il nome Wario è stata una mia idea! Mia moto un cazzo! Sentite? Si sente. Cazzo, però, Sembra come se fosse qui dietro. No, è che al cordless, lì che gira nel corridoio. Ciao, non ci siamo incontrati. Dopo andiamo a prendere un caffè. Un gelato, sì. C'è un gelato. Col caffè. Vabbè, voi siete grandi. No, ho sempre sognato di incontrarlo perché io seguo sempre questa trasmissione. Molto da vicino. Anche se il mio personaggio preferito è Gira. Ah beh. Però, visto che sono qua negli studio principali, penso che dopo chiacchiererò anche con gli altri membri, tranne questo qua. Questo qua chi? Ah, vicino a me c'è solo uno, com'è che ti chiami già? Ah beh. Vabbè. Potete continuare l'intervista perché io ho degli impegni, tra un po' devo andare a... Devo andare all'asta per rilevare i diritti di tutti i giochi della Acclaim. Ok. Che devo fare, no. Che ho in progetto, non hai fatto Apex 2, eh? Ecco, la domanda è, tu da quel che vedo non hai fatto solo videogiochi, sei iniziato anche nel mondo dei fumetti. Ah già. Quindi, parlaci un po' dei fumetti di T-Rex Mask of Sam. Allora, qui si apre un discorso molto più complesso, semplicemente, cioè per dire, io in teoria sono un artista, in teoria, visto che mi sono diplomato e laureato in quella roba lì. In pratica lo sono perché sono iperdotato in qualità artistiche, ecco. Sono iperdotato in quello. specifiche. I fan si fanno strane idee. Siccome le arti classiche, anche se ho laureato in scultura, non mi attirano più di tanto, a parte l'incisione che è meravigliosa, ma se non hai da investire 2000 euro in un laboratorio, l'incisione non la fai. Ho praticato il fumetto per tanti anni, solo che il mondo del fumetto è spietato. Pochi avanzano e tanti soccombono. In più, con la nascita dei comics, ovvero i fumetti online, come i libri e tutte le altre minchiate che adesso vengono vendute online, diciamo che il mondo del fumetto è diventato qualcosa che non mi piace più tanto, perché comunque quando tu disegni fumetti il tuo sogno è vedere pubblicato il tuo lavoro, vederlo lì in fumetteria. L'e-comics è un contentino, è il niente, cioè anche tu ti metti su un sito, te lo fai se vuoi. Lo stesso vale con i videogiochi comunque, e infatti il digital delivery ti dà, credo, un centesimo di soddisfazione di quanto ti dà avere la tua copia in retail nei videogiochi. Ma è un fattore possessivo il tuo. Sì. E vabbè, e comunque... Vabbè, digital delivery per un videogioco è già un po' diverso. Io considero i videogiochi una forma d'arte, se fatti in un certo modo. E visto che coi fumetti non si andava da nessuna parte, ho trasformato il fumetto in videogioco con l'avventura grafica, che è un genere che comunque possiamo definire un cartone animato interattivo, molto interattivo. Sì. Quindi diciamo che ho fatto evolvere il fumetto in avventura grafica, però a un certo punto c'è stata la regressione. Da avventura grafica siamo diventati fumetto, regressione per modo di dire. Beh sì, un ritorno indietro. Sam è diventata una serie a fumetti fantastica, in 25 episodi che potete scaricare sul mio sito. Fantastici. Che una volta erano a pagamento, però. Sì, vabbè, potete scaricare sul mio sito, che per una coincidenza ha lo stesso indirizzo del vostro sito. Penso. Però mitsubishi.gs. No, ma siamo noi che ve lo stiamo pubblicizzando. Oh, lo so. Vedi che coincidenza. Da. Vabbè, un indirizzo uguale anche. E dicevo, e niente, ho fatto questa serie a fumetti gratuita che potete trovare, ed è molto meglio di certa roba che si trova in commercio, ed è gratis, quindi direi che un'occhiata la potete dare. Buoni sti salatini. Ah, ma non sono l'unico che sta mangiando, quindi. Io. No, dico, non sono l'unico che sta mangiando. Vorrei sentire l'opinione di Gira. Sono d'accordo. Vedi, i salatini piacciono anche a lui. Sì. Ah, anche io sto qua un pacco di salatini. Vabbè, scusa. Tutte le stazioni di registrazione non sono forniti. No, girano. Tutti quelli che stanno molto tempo al computer hanno qualcosa con cui sfamarsi. Sì. Io no. Ah, me. Non tranne lui. Vabbè. Vado a prendere il gatto, che ho fame. Poi? No. Avete altro da dire a te? In teoria qui tu non dovresti fare, tu devi solo rispondere. Sento il silenzio, io devo andare all'asta della claim dopo, non posso star qui. Con asta di che? Eh? Asta di cosa? Della claim. Ah, sì. La claim ha fallito e vende i diritti delle sue serie, io voglio acquistare Vex e farci Vex Sono 2. Quelli che hanno fatto il gioco del biliardo nel Super Nintendo, per precisare. Avevano un'iguana come simbolo. E io la farò diventare l'iguana segone. Andiamo avanti. Ma tu non eri quello contro i fangame? Non è un fangame, è il sequel di Vex. Esatto. Io non sono contrario ai sequel. Ok, cerchiamo di andare avanti nel modo più preciso e conciso e meno malato del solito. Mm-hmm. Abbiamo parlato di Dwarf Bounty, Axe Mask of Sam, ergo possiamo passare a un altro gioco. Ah, Space Hunter. No. Tutti sappiamo che lei ha avuto un gran successo, addirittura c'è gente che definisce il fatto che lei abbia avuto due nominazioni. Ne ha avuta una. Due, all'European Games Award, con Cat Knight. Chiamato a Cat Knight. Cosa si può dire di questo gioco e come è stato per lei, è stato sorprendente sentire questa nomination? Innanzitutto la correggo dicendo che il gioco si chiama A Cat Knight. Io ho detto a Cat Knight, è Claudio che ha detto A Cat Knight. Quindi... lo so. Io mi... E in più Cat Knight, perché in tutti, ogni volta che posso il genitivo sassone va infilato, perché il genitivo sassone è magia. Qui chiedono chi è che aiuta Orrent aperto, forse sono io. Io mi è chiuso. U-Torrent, no. Però, vabbè, aspetta. Questo non è il tuo computer. Scusa, vabbè, se ti lasci U-Torrent aperto, io lo chiudo. Comunque, dicevo, ah, A Cat Knight. Allora, il progetto di A Cat Knight nasce in un periodo in cui io avevo detto non farò mai più un'avventura grafica, ed ero convinto di questo, ma... Ah, dici la 15ª volta che l'hai detto? No, era la 17ª. Forse di più, vabbè. Gira, sei di nuovo tra noi? Sì, sì. Ok, molto importante la tua opinione. Sono qua, non mi muovo. Amante dei gatti. Sì. È stata molto decisiva fino adesso. No, che sto cercando di capire perché sento scatti. Dicevo. Ah, sì. E in quel periodo avevo detto non farò mai più un'avventura grafica. Solo che un pomeriggio, mentre facevo volontariato, come al mio solito, al Gattile di Forlì, due belle ragazze mi hanno chiesto di fare un videogioco. Puoi dire di no a due belle ragazze? Ovviamente no. Tutti sono d'accordo, no? Sì, sì, siamo d'accordo. E quindi mi sono ritrovato all'inizio, un po' controvoglia, perché mi ero riproposto di non fare più un'avventura grafica, perché sapevo che il mercato italiano, il mercato, vabbè, diciamo, i giocatori italiani sono dei rompi e non volevo più sentire che il mio lavoro era inutile, però l'ho fatto, e mentre lo facevo mi convincevo che mi stavo divertendo, mi convincevo che stava venendo un bel lavoro. Infatti è venuto un bel lavoro. Come volevasi dimostrare, i primi mesi a Cat Knight non gliene è fregato niente a nessuno, finché dal nulla non è spuntata la nomination European Games Award. I tedeschi fanno miracoli. E con quella nomination tutti: che bel gioco, che bel gioco. Me l'hanno tradotto in francese, me l'hanno messo in tutti i siti. Cioè, in Italia purtroppo è così. Se hai la nomination, che poi qualcuno dice che ne ho vinte due, che no, qualcuno dice che ho vinto, qualcuno dice che ho avuto due nomination. Sono state due cose, probabilmente. Poi vedi anche le voci che si... che nascono, si scontrano. Sì, e comunque in Italia c'era il menefreghismo più totale. Arriva sta nomination dal nulla e tutti riscoprono a Cat Knight. Io riscoprono che io esisto, perché io non ero mai esistito. Ma a Cat Knight quando è che è uscito? È uscito a febbraio, la nomination è arrivata a luglio. Ah, ok. Beh, da febbraio a luglio c'è stato la versione inglese era uscita. Vabbè, di contare che hanno, cioè, l'European Game Award è una cosa che capita una volta l'anno, non è che se capita in questo periodo qua non puoi spedirti. Vabbè, non dico che l'esempio è che da febbraio a giugno non gliene è fregato niente a nessuno del gioco in generale. Arrivata la nomination, ma da quant'è questo gioco? Ma se è arrivata la nomination è perché qualcuno gliene fregava, perché non è che ti arrivi in nomination per culo, diciamo, cioè un po' di culo. Sì, è più che una reazione come aver vinto la lotteria. Quando tu vinci il milione, tutti arrivano. Esatto. Sì, però la lotteria tu hai comprato un biglietto in modo, diciamo, anonimo, e per sbaglio scopri di aver vinto. European Games Award vuol dire che qualcuno ha visto il tuo gioco, qualcuno ha detto: ehi, questo gioco sembra... è una figata, sì. Vabbè, certo, io mi merito di vincere, io merito di finire lì dove sono finito. Però non puoi dire che nessuno gliene fregava, perché sennò se nessuno veramente gliene fregava, nessuno non t'avrebbe visto nemmeno. Allora, in generale, né in Italia a nessuno gliene fregava. Non mi ha visto un italiano, mi ha visto un tedesco, quindi è confermato quello che ho detto. Ok. Ti ha visto un tedesco che però ha giocato al gioco in italiano, giusto? Sì. No, in inglese. Ah, giusto, è vero che tu... Ah, no, niente. Sì, però tradotto in inglese. È vero che i giochi sono tradotti, sì, sì. Sì, ecco, qui potremmo aprire la fantastica parentesi di giochi per il mio computer. Perché? Perché, allora, facciamo un'anticipazione. Io ho iniziato a fare il game maker perché vedevo la gente che con i loro giochi amatoriali finiva sulle riviste. anch'io volevo finire sulle riviste. E praticamente non ci sono mai riuscito. Sono arrivato a un concorso europeo, ma non sono mai finito su ste cazzo di riviste. Obiezione. E... una volta ho letto una tua lettera di la sto provocazione. Per dire. Ecco, però quest'anno, sì, è stato a dicembre, ho mandato sta lettera a sia giochi per il mio computer che a The Game Machine, dove dicevo che il mercato italiano dei giochi amatoriali fa schifo perché la gente non gliene frega niente. Si lamentano che i giochi costano troppo e poi li vanno a comprare e se ne fregano di quelli amatoriali. Su giochi per il mio computer questa lettera è stata pubblicata e Nemesis, da... che sicuramente è andata a vedere il mio sito e ha provato i giochi, ha detto queste parole: ah, forse dovresti tradurre i tuoi giochi in inglese e darti al mercato europeo. Ok, ma i miei giochi sono tutti in inglese. vabbè. E nonostante ciò, non sono neanche un piccolo paragrafo con uno dei miei giochi. Sono il primo italiano a pari merito con Molly Industria a essere finito ai European Game Award. Nessuna rivista, nessun sito ne ha parlato. Ma vabbè. In compenso abbiamo siti italiani che mettono la notizia che The Witcher ha vinto 12 premi. Chi se ne frega? The Witcher è un gioco del cazzo dove c'è un elfo che uccide ragni e si scopa le tipe. Che cazzo di gioco è? È la filosofia di vita che c'è adesso. Vabbè. Ma invece, invece su The Game, su The Games Machine l'hanno pubblicata? No. No, per quello che ne so, no, io i numeri non li ho comprati. Ah, ok. Cioè, quindi... per i giochi per il mio computer io non avevo comprato il numero. Un lettore me l'ha detto via mail. Ah. No, infatti ti stavo per chiedere che numero era, dato che magari forse ce l'avevano. Ah, ce l'ho nel mio sito, però la... E allora vado a vedere. O era gennaio o era febbraio di quest'anno? Ah no, allora non ce l'ho. Mi sembra c'era... c'era King Bounty con la rivista, mi sembra. No, Risen, c'era Risen. Sì, allora non ce l'ho. Ok. Niente, basta. Comunque, se volete leggere la fantastica lettera, è da qualche parte nel sito, nelle notizie vecchie. Vabbè. Ok, lo faremo, forse. Allora, vediamo un po'. Abbiamo parlato dei nomi più famosi delle avventure grafiche, però c'è anche da dire che questo game maker non ha fatto solo avventure grafiche. No. Ok, sembrerebbe anche che sia dedicato a giochi molto particolari, o giochi di corse, o giochi di ballo, o anche platform, volendo. Il punto è che, da dove... cioè, tu magari cos'è, hai pensato, ma forse con l'avventura grafica non avrò successo, proverò con un altro genere? E questo è stato il motivo per cui hai fatto quei giochi? No, non è stato quello il motivo. Adesso te lo spiego il motivo un attimo. Sto frugando nel computer di questo signor Vario Punk. Allora, non è bello che lo dici in diretta. Ah beh, lui non sta ascoltando. Allora, di base, il primo, diciamo, non avventura grafica, è SPF Road to Westernmania, che è uno spin-off di T-Rex, è un picchiaduro spin-off di T-Rex Mask of Sam. Quello l'ho fatto per cercando di aumentare i download a T-Rex Mask of Sam. Era un incentivo. Sì, diciamo, vedi i personaggi in questo gioco, ti piacciono, scaricati T-Rex e Mask of Sam. Era. Tutti gli altri invece li ho fatti perché avevo trovato il modo per farli e li ho voluti fare. Quando sbocchinavo con RPG Maker, oh guarda, si potrebbe fare un gioco di corse, facciamolo. E è sempre andata così più o meno. Tra l'altro Micio Segone Grand Prix l'ho fatto in un periodo che era un anno e mezzo che non facevo videogiochi e in cui ero fermamente convinto che non avrei mai più fatti, e invece ho fatto quello e dopo a catena ne ho fatti altri 4, quindi direi che mi ha fatto riprendere abbastanza. Ok, per cui io direi di essere abbastanza soddisfatto per le risposte. Ragazzi, voi avete qualcosa da chiedere al signor Punk Vario? No, io volevo chiedergli una cosa, però non so se magari gliel'avete già chiesta. Volevo chiedergli quando, cioè, come ha imparato ad usare AGS e RPG Maker. Oh, allora, RPG Maker di base è di una facilità. Allora, dipende cosa vuoi fare. Diciamo più AGS che RPG Maker, perché quello so che è abbastanza semplice. Intuitivo. Diciamo che RPG Maker dipende da cosa vuoi fare. Se vuoi fare un RPG come Final Fantasy 4, per dire, basta che clicchi i pulsanti a caso per 2 ore e hai imparato a farlo. Se vuoi fare qualcosa di un po' più complesso, o prendi script fatti da chi sa programmare, che sono liberamente condivisi in internet, o se non esiste quello che vuoi fare tu, impari a scrivere in linguaggio Ruby e te lo scrivi da solo. Io un ottimo programmatore, ti sei fatto tutti gli script. Sì, io frego gli script da internet. Ultimamente uso quelli di Tomoaki, che è un bravissimo scripter giapponese. Ad esempio Oximus Prime, il platform shoot'em up, è fatto con lo script che si chiama Tomoaki Platformer. E Cactus Strawberry è fatto con lo script Ray Dance Minigame, e invece Mitsugone Grand Prix è fatto ad eventi. Quello lì è fatto ad eventi, non è fatto con script di corse. Beh, anche perché penso che gli eventi, almeno penso che gli eventi di RPG Maker si possono, cioè, usare così anche senza script. Sì, sì. Cioè, non c'è bisogno di uno script per fare un gioco di corse, almeno in RPG Maker. Dipende come lo vuoi fare. Come l'ho fatto io, no. Se tu lo volevi fare proprio Mario Kart, lo script ci vuole. Perché le armi e certe altre cose hanno necessità di essere programmate a fondo. Sì, sì. E, invece per Adventure Game Studio, semplicemente era così. In Italia non c'era un tutorial decente. Non c'era gente che sapeva già usarlo, che si rendesse disponibile. Volevo fare un gioco, mi è toccato imparare a programmare. No, vabbè, la versione 2.7 di quella con cui ho fatto la Dulas Barn era più simile a RPG Maker. C'erano tanti pulsanti che ti aprivano finestre in cui tu inserivi dati e i nomi delle cose, diciamo, era molto più facile, però era limitato. Con la versione 3.0 da T-Rex e Masco Sam in su ti dà foglio bianco e quindi lì devi proprio qualcosa lo devi imparare, però bene o male per fare un gioco sono 15 script quelli di base, e li trovi tutti nella guida di AGS. Nella guida c'è il cerca, tu cerchi. Ma almeno io ho provato AGS, alla fine è molto semplice, cioè sì quello che lo script che devi fare sono più che altro quando devi parlare o quando devi fare cose tipo vai da una stanza all'altra, fai sparire l'oggetto. Sì. Cose abbastanza semplici. La maggior parte delle cose più complesse sono abbastanza drag and drop, ho visto, tipo lo sfondo, renderlo animato, fare queste cose qui. Sì, tipo sì, quelli sono ancora manipolati da un'interfaccia. Sai, ho provato, tipo, se vuoi provare a fare un'interfaccia tipo in Java per un programma da zero, i bottoni addirittura devi metterli con le coordinate Y, X sul piano cartesiano, quindi certo. Meno quello te lo risparmino. No, dicevo, RPG AGS non è difficile, però rispetto a 2.7 vabbè, molto meno intuitivo di... c'è già più foglio bianco. Nella 2.7, quando tu facevi ad esempio che vuoi usare un oggetto su un hotspot, c'era il pulsante apposta che ti diceva, ti chiedeva quale hotspot, quale oggetto. Nella 3.0 c'è il foglio bianco, cioè tu fai click on use object on hotspot e ti dà il foglio bianco e tu devi scrivere cosa succede. Però sono script da un lato è un pregio, perché hai più libertà, dall'altro lato è anche un difetto, perché uno che non è capace si deve imparare per forza. Sì, però comunque sono pochissime script. Comunque una volta che hai imparato la sintassi è sempre quello. Se hanno fatto una cosa del genere non penso perché sia di una gran difficoltà, ecco. Non penso abbiano fatto tutto questo salto di difficoltà. Sarebbe una pazzia anche per AGS stesso. Cioè, per dire, per far dire una frase a un personaggio, lo script è riccardo.sei, aperta parentesi, quello che di... No, le virgolette non sono obbligatorie. In alcuni sono obbligatori, in questo no. Dici quello che vuoi dire, chiusa parentesi, punto e virgola. Quello è, fa dire la frase. Un classico... Il classico, la classica programmazione a oggetti. Sì. sì, nome, sì, punto, cosa devi fare. Sì, non è difficilissimo. E bene o male è tutto così. Quando tu inizi a usare le condizioni, ci sono anche gli if e gli else, ma siamo e le parentesi quadre, ma siamo sempre lì, dai. Sì, sì. È molto simile, cioè, a un misto tra Java, C++, C, tutto un misto strano. Mm. Tipo quel punto, cioè Riccardo.6, così se, mi ricorda molto il Java, mi ricorda. Il sistema a me invece ricorda il, a me invece ricorda il Basic. Vabbè, sì, perché il Basic è simile. Eh sì. Diciamo, semplifica un po'. Che AGS è stato fatto nel 2000-2001, ma ogni volta che esce una nuova versione modificano la sintassi, la rendono più semplice. Ah, quindi vabbè, anche se tu importi un progetto di una vecchia versione nella nuova, ti dà 300 errori perché la sintassi è completamente diversa. Questo è un problema, è un difetto abbastanza grave allora. Allora sì, è un difetto abbastanza grave. Perché cioè i progetti non sono retroattivi, quindi magari uno si è programmato tutto il gioco in una 2.7, però esce da 3.0 con una feature in più e dovrebbe o riprogrammarsi da zero tutto il progetto. Sì. No, oppure davvero no, cioè solo gli eventi del global script sono, vabbè, stiamo andando in termini tecnici, però. Vabbè, stiamo divagando. Però comunque, ad esempio, c'è ancora gente oggi che fa uscire giochi con la 2.7 perché preferisce quella versione lì, per dire. Quella è una Vabbè, come in RPG Maker c'è gente che usa ancora il 2000 e il 2003. Sì. Io, il mio preferito è l'XP, addirittura, che è del 2003, quel periodo lì. Del 2003 in poi è uscito l'XP, non mi Beh, ricordo quella è più. una questione, diciamo, in qualsiasi campo, come c'è gente che usa ancora Windows XP Io. perché lo giudica più leggero. Vabbè, tu perché farci girare un sistema superiore è una pazzia sul tuo PC. Però, Come fai a saperlo? no, nel tuo PC poi, il PC. Maledetto hacker. Ed è solo la versione 4.0, quando si evolverà sai cosa La combina. prossima versione il linguaggio di Riccardo sarà obsoleto, ne avrà No, nuovo. la prossima versione potrò creare un ologramma dentro casa tua. E saprà parlare anche Dentro la presa. il francese. Guardate che mi sto concentrando. Dai, non mi riesco ad aggiornare, c'è errore di rete. Ma quando sarai 5.0 i giochi del Game Boy Advance andranno ancora o non andranno più? Sì, io sono a favore degli ambienti retroattivi. Assolutamente a Dovrebbe favore. essere a prova di R4. Dai, va. Ok. Tu, Riccardo, non hai qualche curiosità per questo ospite indesiderato? Ho Desiderato guidato addirittura. fino a Dovadulas. Tu pensi che sia facile arrivare a Dovadulas? Questa Non... non è Dovadulas. Questo è Ah, ma dove. non sei arrivato in elicottero. Allora È senza l'informazione apostrofo S. Ecco perché non la trovavo. è sbagliata. Vabbè, no, che domande dovrei fare? Diciamo che mai. Vabbè, ho detto tutto. Almeno Ah da sì? parte mia. Io da parte mia ho detto tutto. Ho chiesto tutto quello che pensavo di voler chiedere. Sinceramente la ritengo un'offesa. Negli altri episodi li avete tenuti più di un'ora e io invece vengo sbolognato così. Io le domande ce l'ho, ma sono tutte offensive. Vabbè. Offensive. Vabbè, dai. Vabbè, non so, Ma non so. parliamo un po' delle tue ispirazioni videoludiche. Di Prima cospirazioni. hai ispirazioni. Prima hai Ah. parlato di che, diciamo, la tua prima cioè, le tue Delle ispirazioni cospirazioni ne parliamo cinematografiche. dopo. Sì, non ti preoccupare. Le tue prime ispirazioni per le avventure grafiche sono stati Monkey Island. Però In non realtà avrei giocato no. solo. Non avrei giocato. No, dico per le avventure grafiche. No, ma in realtà no. Però. Ho giocato altre avventure grafiche prima di Monkey Island. Dai, Certo. parlane un po', allora. Allora, prima ho detto che la Monkey Island Frenzy mi ha fatto di voglia di fare un gioco, Ah, perché sì, però la prima avventura grafica che ho giocato, allora, in ordine non me lo ricordo, però le prime che ho giocato quando andavo ancora in quinta elementare erano Grim Fandango, Leisure Suit Larry 7, Tony Taff e l'altra era Hollywood Monsters. ok. Hai giocato prima Grim Fandango di Monkey Island? Sì, però non l'avevo comprato io, me l'avevano prestato. E invece, sia Leisure Suit Larry 7 che Hollywood Monster. E l'altro qual era già? Tony Tony Taff, sì, sia Tony Taff che Lazer City Larry 7 che Hollywood Monster erano con PC Action, grande rivista ormai defunta. La cultura di avventure grafiche me la sono fatta con PC Action alla fine. E su che PC vi giocavi? Che PC avevi? Windows 98. Qual è il sistema operativo? Vabbè, il PC non ne so io le cose lì. Pentium 2, Pentium 3, cacchio. Oddio. PC d'epoca, epico, diciamo. Epico Windows 98. Mi ricordo solo il sistema operativo. Vabbè, rimane più impresso. Vabbè, giravano bene, se è quello che vuoi sapere. No, Grim Fandango no. Grim Fandango non girava benissimo. E come gira? Gira. In senso antiorario o orario? Gira. Gira 93. Ah, ok. Quindi veniva fuori gira, insomma, quando ti giocavi. No, andava un po' a scatti Grim Fandango. Gli altri tre normali. E la più significativa tra queste a quei tempi fu Hollywood Monster. Infatti dove vado Last Barn si rifà molto Hollywood Monster. Però quella che mi è piaciuta di più era Leisure Suit Larry 7. Dopo Grim Fandango con gli anni l'ho riscoperto e quello è l'Olimpo delle avventure grafiche, talmente in alto che Tim Schafer non farà mai un gioco alla sua altezza, ma neanche a metà della sua altezza. In pratica ti è piaciuto talmente tanto il gioco che adesso ti permette di insultarne il creatore. Beh, è la realtà. Sia Ron Gilbert che Tim Schafer hanno avuto colpi di fortuna nella loro carriera, ma non sono più in grado di fare giochi anche di quel livello. Anche tu con la Cat Knights, quindi. No, io sono meglio. A Cat Knights. Penso se adesso la Telltale comprasse le licenze di Grim Fandango. Se adesso la Telltale fa una cosa simile, li insulterò il triplo invece che il doppio, no? Ecco, qui mi urge una domanda particolare. Dato che ci urge... La saga di Urza. Basta. Dato che tu odi talmente tanto la Telltale che ne parli male da ogni parte, ogni dove. Sì. Se la Telltale offrisse di comprare una delle tue licenze, tu cosa faresti? Allora, c'è una clausola. Io devo lavorare al progetto e prendere tutte le decisioni. Nessuno di quegli incapaci deve toccare i miei lavori, perché saprebbero solo rovinarli. Dovrebbero anche pagarti per però questo. Accetteresti. Eh? Però accetteresti. Io ho bisogno di soldi, però se però però il progetto, io sono il direttore esecutivo, cioè loro sono i miei schiavi, io ti dico te fammi sto modello 3D, tu lo fai e stai zitto. Però tutte le decisioni da regista le prendo io, perché è il mio gioco, sì, loro sì. Sono degli incapaci che lo rovinerebbero. Quello potrebbero, cioè, potrebbero anche infatti accettare. Sarebbe un no. E infatti nelle... Sì, è un sì impossibile. Infatti le saghe più belle quando è che muoiono? Quando il loro creatore originale se ne va. Vedi esatto. Resident Evil, vedi Silent Hill, vedi Final Fantasy. Quando il creatore lascia in mano agli altri deficienti... Ma perché lascia in mano agli altri deficienti? È perché più delle volte quando il creatore lascia è perché capisce già che sta degenerando. Sì, creatore... sì. È perché, però... diciamo, quelle che fa morire le saghe sono... Sono software house che puntano ai soldi. Sì, puntano sì, non sono chi fa il gioco. È la software house che dice continuiamo a spremere questo marchio. Questo marchio fino all'osso, facendo le schifezze più incredibili. E ovviamente vengono fuori delle porcate. Però il creatore se ne lava le mani e se ne va, come ha fatto Dylan Dog, Tiziano Sclavi con Dylan Dog, per dire. Alla fine ci salva solo Super Mario, diciamo. Sì, fa sempre le stesse cose, quindi cioè, sì. Un po' peggiorare. Almeno lui scopre nuovi pianeti. Sì. No, è che Super Mario è un gioco che è impossibile snaturarlo a tal punto da dire che è schifo. Cioè, non dico che può solo migliorare, però dico, come fai a fare Super Mario che fa schifo? Cioè, peggio non può essere. Il massimo è... Il massimo come fare è renderlo facilissimo, però... No, il peggio l'ha già toccato, diciamo. È da provare quello 3D, che da quello però che ci sono anche, ho letto recensioni. Diciamo che ci sono anche delle eccezioni, ad esempio Monkey Island 3, nonostante Gilbert non c'entrasse niente, è molto bello, e secondo me è il più bello, a dire. Alla fine, quando vai a vedere tutto, il 2 è la storia più bella, ma nel complesso il 3 la vince. Secondo me. Quella sì, in effetti il 2 l'ho trovato sempre un po'... Non lo so, forse mi è sempre sembrato anche graficamente inferiore addirittura al primo. Non lo so, era tutto un po' impastato. Del Altero. 2 è bella, è molto bello gli enigmi, l'umorismo in generale, però se tu prendi il complesso il 3 la vince, secondo me. Sì. E non è di Gilbert. Questa è un'eccezione, ad esempio. Anche Final Fantasy X non è del creatore originale, però non è uno schifo. Lo schifo arriva col 12. Anche il 10 seconda parte. Sì, anche con quello, sì, Sailor Moon nel mondo di Final Fantasy. Che nessuno conosce. Sì, Charlie Sanger, se Sailor Moon fuse assieme, ti trasformi anche. No, quello lì è fatto per le ragazze adolescenti e i bimbi minchia, alla fine. Infatti l'unica persona che conosco a cui piace è un omosessuale dichiarato e una ragazza che vorrebbe fare la stilista, quindi... È vero sul fatto del creatore che se ne va, che il progetto diviene brutto. L'ho visto anch'io, purtroppo, con il mio bel Donkey Kong. Ma anche col cinema, succede. Quando la Rare l'ha lasciato. Non è che la Rare l'ha lasciata, è la Nintendo che non ha voluto darlo più alla Rare. La Rare è andata dalla Xbox e ha portato avanti Banjo-Kazooie, che era loro. E Donkey Kong è diventato una merda, perché adesso i suoi nemici sono animali incazzati, non sono più i Critters e non c'è più King Kremlin, Roll. Kremlin, non Critters, sono i Kremlin. I Kremlin. E non c'è più King Roll, cioè King Roll è carisma che esce da ogni lardello. È l'unico cattivo che muore per finta e poi si risveglia e devi ribatterlo altre tre volte. Cioè, quell'altro tre colpi. E poi è strabico, cioè, è fenomenale King Roll. Vabbè. La Rare è stata una gran... La Nintendo sta facendo tante brutte tante cazzate, tipo non sfrutta più Star Fox, non sfrutta più F-Zero. Sfrutta marchi del cavolo come Breath of Fire o altri. Com'è che no, si che cacchio, non è Breath of Fire, aspetta, ha un nome simile. Samba de Amigo. No, non... Samba di Amico. È un gioco del Wii. No, non è Breath of Fire. Hai che scemo? Dov'è che sono? Fire Emblem. Fire Emblem. Breath of Fire è tutt'altra cosa. A parte che Samba di Amico era un gioco del Dreamcast che poi hanno rifatto sulla Wii. Ah. Vabbè, l'hanno fatto lo stesso sulla che Wii. Che dispiacevole sorpresa. Sì, ma non è della Nintendo Samba di Amico. No. È un porting Nintendo. Però, ad esempio, le saghe che dicevo io sono proprio diritti della Nintendo. Sì, ma Samba de Amigo ha perso il creatore originale, è diventato brutto anche quello. Ma cosa vai, stai dicendo? Stai delirando. Sono io l'intervistato. Allora, fatti fare le domande, buono. Sì, ma da dove siamo arrivati qui? Ah, le avventure grafiche. Ah, sì, se darei i miei lavori in mano alla Telltale. L'ho già detto. Infatti. Stavamo parlando del fatto della tua... Del fatto che tu ti eri preso da Monkey Island e hai ispirato, ma in realtà ci sono stati altri giochi prima. Sì, l'ho già detto quando tu eri andato via. Ora non lo so di cosa stiamo parlando. Di quello, tu mi hai chiesto, venderesti i tuoi diritti alla Telltale? E io ho detto no, perché loro sono stupidi e dovrebbero darmi tutto il potere. Ok, quindi la risposta è questa, capito Telltale? Fottetevi! Ecco, così sono inglesi, sono americani, non capisco un cazzo. Dipende se hanno la versione 5.0 di Riccardo disponibile da aprile. Ok. Dai, me l'hai servita su un piatto d'argento. Dai, vai avanti. Gira, tira una domanda d'effetto. Fammi le domande e io cambierò le risposte. Situazione... No, non era così che diceva Roddy Piper. No. Diceva... Ah, quando loro pensano di sapere. Di avere tutte le risposte, io cambio le domande. Ah, sì, è così. Non saprei. Anzi, sì, ecco, mi è venuta una domanda. La più brutta in assoluto avventura grafica che hai mai giocato, ma non commerciale, indipendente. Oh, ecco, adesso posso dirlo, non vedevo l'ora. No, ho capito. Ben Jordan episodio 8. La più grande della storia dei free games. 2 anni per fare una cutscene lunga mezz'ora. Cioè, il gioco è una cutscene di mezz'ora praticamente. Tu per 10 anni pompi una saga che ha anche dei capitoli di merda, poi dei bei capitoli. Poi crei il 7° capitolo che è solo un trampolino per fare questo 8 incredibile. E l'8 è una cutscene di mezz'ora. Dove tutti gli enigmi, tutte le sottotrame create nei primi 7 episodi sfociano nell'idiozia. E dove devi usare sempre, in ogni mappa devi fare oggetto A su hotspot B, sempre. Insomma, hai rivelato tutti gli enigmi del gioco, come si risolvono. No, ho detto che il gioco è un flop della madonna, infatti 2 anni ci ha messo a farlo. Boh. No, in realtà è che tutto questo lo dico perché ci sono rimasto male. Io mi aspettavo un finale con i fuochi d'artificio e invece alla fine rimani... Se hai giocato tutti i primi 7 capitoli e per come me per 2 anni hai aspettato l'8. Cioè se li giochi adesso e giochi all'8 magari non è così. Ma io questo 8 l'ho aspettato per 2 anni e pensando sarà una figata, scopriremo perché questo, e invece ti ritrovi una cutscene di mezz'ora dove ti dicono, cioè le sottotrame sfociano nella mediocrità più assurda, nella banalità più assurda. Però ho giocato di peggio. Banale nel senso come il mondo di Banjo-Kazooie è fatto di stupidità o come Dorado la sbarra? Come la quinta stagione di Buffy. Ok, non era tra le opzioni, però posso capire che genere di banale. Dorado la sbarra non è banale. Ma no, ma banale tipo alcuni personaggi sono proprio pazzeschi. Fammi un esempio rivolto a 2 attori famosi. Sean Penn e Sean Connery. Banale come Sean Penn. Bene. Piomba, sono un po' spesso in silenzio qui. Allora, vabbè. A quanto pare mi tocca riprendere la parola con le domande. Dov'è quel podcaster bravo? È ancora là che parla a telefono. Non esiste il termine podcaster. Sì che esiste. No, che non esiste. Oh. Ah, è vero, ci va l'apostrofo S. Podcasters barn. Sì. Barn. Suona bene. Vai. Ora, torniamo a noi. Ecco, qui... arriviamo a un punto cruciale, nel senso, tu hai fatto uscire il tuo ultimo gioco, che in realtà non è tuo, quello sulla zucca, dai, com'è che si chiamava? Ah, The Path of the Pumpkins, apostrofo S. Barn. Ecco, questo gioco non ha riscosso molto successo a quanto vedo. Già. Parla un po' del making, o comunque di quello che ti aspettavi. Allora, sui risultati del gioco. Questo gioco... per la maggior parte è stato fatto da... dal mio operaio sottopagato. Certo, che sempre da. Sì, si chiama... non so, aspetta, non so pronunciarlo, quindi dopo te lo dico. Klaus, ecco. Turrus? No, Tursas. Ok. Lui lavora con me dai tempi di non mi ricordo cosa, di T-Rex Mask of Sam, dove gli avevo dato un piccolo spazio per scrivere un paio di enigmi. Sicuramente piccolo. Dopo ha avuto anche i suoi momenti, tipo disavventure. Tipo Space Hunter è una sua idea e l'ha fatto lui, io ho curato solo parte della grafica. E questo The Path of the Pumpkin invece è un progetto quasi interamente suo. Ho curato solo la grafica anche qui. E mentre iniziavo questo progetto l'anno scorso, ero parecchio scettico. Gli dicevo, tanto non lo finirai mai. In tedesco, io lo dicevo perché. No, in italiano, così non capivo. Che bel modo di incoraggiare. Tanto non finirai mai perché lo vuoi fare troppo complicato. Perché lui capiva tutto. Perché l'Italia fa cagare e via. E infatti dopo 2 mesi si è fermato e non l'ha portato avanti, soprattutto perché dormiva tutto il giorno. Tanto non è pagato per questo. Infatti, tanto è sottopagato, quindi... No, non è proprio pagato. Ah. Paga me per vivere sotto lo stesso tetto. Non ha senso. E per vivere nella mia fabbrica che uso come studio. E quest'anno dal nulla ha ripreso il progetto. E pian piano, mentre il progetto andava avanti nei 5 mesi tipo che ci ha messo a farlo, vedevo che diventava sempre più promettente. Anzi, alla fine ho ammesso e ammetto tuttora che è il gioco migliore uscito con etichetta Micio Secone Games. È veramente, veramente fatto bene. Anzi, mi permetto di dire che è la migliore avventura grafica italiana amatoriale. Sì, meglio dell'Audiogalassia. Ci ho giocato all'Audiogalassia più di una volta e questo è meglio. Ed è più lungo. Sì, vabbè, è anche più lungo. Ma l'Italia è popolata da caproni. La gente legge sui forum, è uscito questo gioco fantastico, e su 10 persone uno lo prova e ti risponde. Uno lo prova e non ti dice niente. Quanti ne sono rimasti? 8. Due ti rispondono provocatoriamente dicendo, come ose dire che è il migliore. e gli altri 6 non dicono niente, se ne fregano. No, in solito c'è un Micio Sugone. Ah sì, c'è anche quello che dice Micio Sugone ride o dice Micio Sugone non l'ho mai sentito. Oh, adesso lo devo dire, mi gasano. Hackett Knight mi ha permesso di far salire il mio ego alle stelle. Se qualcuno di voi segue il wrestling in questo periodo, credo di no. La mia gimmick attuale è quella di CM Punk che ha adesso, ovvero il best in the world. Se non siete esperti di wrestling, non avete capito niente di quello che ho detto. E neanche di inglese allora. esattamente. Sì. Vabbè, praticamente la gimmick è il personaggio che interpreta un wrestler. Può essere un personaggio marcato, come il pirata per dire, o anche una caratteristica dell'atteggiamento. In questo momento il campione del mondo ha la gimmick malvagia del best in the world. Quindi lui sostiene di essere il migliore del mondo e rompe il cavolo a chi dice di no, semplicemente. Ecco, io sono uguale adesso grazie alla nomination degli European Games Award. Quindi, quando un paio di settimane fa, mentre spammavo senza pietà The Path of the Punk su tutti i forum, un tizio, che se la tiravano un poco perché sa programmare da zero, mi ha detto, Micio Sugone non l'ho mai sentita. Allora lì, lì mi sono potuto permettere di rispondere. Uno, si scrive Micio Sugone tutto attaccato. Due, comunque tu non mi avrai mai sentito perché in Italia sono tutti scemi e non parlano di me, ma io sono il primo italiano a essere finito l'European Games Award. Complimenti. Ah, queste sono soddisfazioni. Che soddisfazione. Sì, queste sono soddisfazioni. Tu sai programmare da zero, bene, non me ne frega un cavolo, io sono finito l'European Games Award. E anche un nanana, un papapero ci starebbe bene. E come sono finito a parlare di questo? Ah sì, che in Italia non ne frega niente su The Path of the Punking. The Path of the Punking, quando uscirà la versione inglese, farà furore, come sicuro che sarà. E quando arriverà la prima nomination a qualche premio, tutti gli italiani diranno: oh, ma quando è uscito sto gioco? Già. Ringrazio gli italiani che l'hanno provato e me l'hanno detto, che sono April Skies, Louise. E non me ne vengono in mente altri. Ce ne sono altri? Sei tu? Che me l'hanno detto non ci sono. Quindi grazie a Prisky e Luis, perché quando provano il mio gioco me lo dicono. Anche quel Pietro Turri non ti li ha fatti i complimenti. E c'è stato un Giga che ha fatto anche una recensione di un Dovadulas Burn, eh? Sì, ma adesso non stiamo parlando di Dovadulas Burn. No, ma... per entrare, no, in quelli che ti hanno detto bei giochi in generale. Volevo dirlo. No, adesso però ti sei fatto un The Punk. Sì, non l'ho ancora provato, devo dirlo. Se dovrei citare tutti quelli che hanno provato i miei giochi, mi hanno fatto i complimenti, ci vorrebbero un paio di minuti, quindi... Meno male. Purtroppo non li abbiamo. Non li abbiamo, no, siamo stati qui tipo 2 ore, però... E... Aspetta, mi era venuto in mente una cosa. Sì, comunque grazie Gira per trovare la squadra. Niente, si è offeso. Ah, non l'hai pagato? No. Non l'hai pagato. Nessuno paga me perché io devo pagare gli altri. Tra l'altro, visto che stiamo parlando di gente che paga, cioè gente che paga, sì. Pagare, ci sono certi siti, di cui non farò il nome, del come Softonic, cioè Softonic non è così, però per farvi capire che tipo di siti, come Softonic, ovvero siti dove potete scaricare software, che per inserire il tuo sito nel loro archivio e per darti una recensione vogliono essere pagati, e non poco. Ascolta, tu devi dare dei soldi per farti recensire. Sì, anche se tu fai freeware. E... quando esistono altri 200 siti che fanno la stessa cosa gratis e sono più visitati, ma va bene lo stesso. Sì, infatti non ho mai sentito parlare di siti del genere, quindi significa che non sono molto famosi. Si chiama Two Chaos e le recensioni le dai mucche. Il massimo è 5 mucche. Ah beh. Beh, noi siamo le banane. Vabbè, le banane sono più anticonformiste. Questo non aveva molto senso. Vabbè. Niente, non lo so, cosa dovete dire? Cosa dobbiamo dire ancora? Ho ancora un po' di tempo prima della l'asta di ricordarcelo. Dell'asta dell'acclaim. prima o poi riuscirò anche a avere i diritti di Lazy Suit Larry dalla Vivendi. Vivendi di merda. Ecco, da Larry voglio fare uno spunto. Tu hai tradotto Larry 6. Non ci posso credere, è il direttore esecutivo. Non interrompere l'intervistatore. Si è appostato un attimo alla porta. Comunque, dicevo, è un piacere, è il direttore esecutivo. Ok, possiamo... tipo simpatico. Sì. Dai, continua. Tu hai tradotto sia Sei che Freddy Parkas di Allove. Diciamo Allove, della Sierra, vai. Sì, sì. Ecco, questo fatto che tu ti sei messo a tradurre questi giochi famosi. Perché rima. Va avanti, so già cosa vuoi chiedere. Ti porterà a tradurre altri giochi? Ah no, non vuoi chiedermi quello che pensavo. Sinceramente ho tradotto videogiochi nel periodo in cui avevo detto non farò mai più un videogioco. Quindi sempre. Sì, vabbè, nel periodo in cui non lo facevo veramente, ok? In quell'anno e mezzo in cui non ho fatto videogiochi ho fatto... In questi 10 anni in cui tu hai detto non farò mai più un videogioco. Tu non mi conosci neanche. È un virus, ti conosco. Mi conosco tutti. Ora ho un intero dossier di tutta la tua vita. So anche quante volte vai in bagno, tutte queste cose qua. Hai letto la mia biografia? No. Vabbè. Spero che tu scriva queste cose nella tua biografia. Stavo parlando. Allora, in quell'anno e mezzo ho fatto la serie fumetti T-Rex e Muscle Sam, la traduzione di Lazy Suit Larry 6 e la traduzione di Freddy Parkas. L'avevo iniziata e poi l'ho finita nel periodo in cui facevo videogiochi, perché l'avevo lasciata a metà e l'ho voluta finire. Ho fatto le traduzioni perché... Uno, perché quei giochi non erano mai stati tradotti e meritavano, perché Allove è il mio idolo nei videogiochi, per quanto riguarda i videogiochi, per quanto riguarda le avventure grafiche. In generale ci sono altri grandi uomini, ma Allove è un grande orso. E poi perché... Grazie ad Arena 80 avevo trovato la guida per poterlo fare, perché se non trovo la guida non l'avrei fatto. E infine perché speravo che quelle recensioni potessero aumentare le visite al mio sito. E funziona, e in effetti succede. E nient'altro da dire, niente. La traduzione di Freddy Farkas l'avevo fermata perché su All Games Italia avevano iniziato a... darmi addosso, perché quella di Lazy Suit Larry 6 era fatta male secondo loro, e loro la stavano facendo un'altra. Poi oggi nel 2012 la loro è ferma e non andrà mai più avanti, probabilmente. La mia è finita già da un anno e mezzo, e quella di Freddy Parkas poi l'ho portata avanti quest'anno quando mi era passata l'incastatura e avevo fatto pace con All Games Italia. Beh, quindi diciamo che tu hai subito offese da gente che comunque alla fine non ha completato quello che doveva fare, quindi tu alla fine sei prevalso con la tua traduzione. Sì, avevano ragione che è piena di errori, però qualcuno era arrivato a dire se devi farla così è meglio che non la fai, allora puoi anche stare zitto, direi, perché almeno la mia c'è. Però vabbè, sono cose passate, adesso è tutto a posto, siamo tutti amici. Di nemici ne ho già abbastanza, e se volete dopo ve li elenco. Ok, vabbè. Ragazzi, altre richieste? No, sinceramente no. Anch'io sono a posto. La peggiore intervista di sempre, per citare un fumetto. E qual è stata la migliore? L'unica? No, sono già stato intervistato su All Games Italia, è vero. Ah, ok. La migliore di queste? Era scritta, però... sì. Ah. vabbè. Quindi... siete un branco di incompetenti. Sì, normale. Non mi vengono neanche le parole per offendermi, basta, io me ne vado sdegnato. Se vuoi chiamare anche quell'altro che sicuramente avrà finito di litigare. Ha trattato male il vice direttore esecutivo. Oh, ma che gli ha preso quello là? Oh, ha mandato a quel paese il vice direttore esecutivo. Oh, ragazzi. Ah, gira, ciao, quando sei arrivato? Sono arrivato da un'oretta. Un'ora. Ah, oh, ok. No, è che, scusate, ma che cazzo è successo qua? Oh, io sono stato un'ora e tre quarti al telefono. Oh, questi giapponesi, Dio, boh, non capisci un cavolo. Cosa vuoi che capisca? Da loro è notte, adesso non lo so. 8 dopo mattina. Mattina. Da loro è mattina, quindi sono incazzati per forza. 8 ore prima di adesso. Ok, sì, è sabato mattina. No, loro, no, allora è più avanti, scusa, quella è l'America che è indietro. No, da loro è notte. È sabato notte. Ah, poi ce lo chiami sabato notte. No, sono loro che mi hanno chiamato. Vabbè, oh, avranno i loro problemi. Sto Miyamoto, ho rotto le balle, eh. Sentirai i miei avvocati, che non sanno il giapponese. Vabbè. Ma cos'è successo all'ospite che è andato via tutto incavolato? Ma anche spinto, ha mandato quel paese direttore esecutivo? Buono, non è stato soddisfatto da dire quella... Con il suo riflesso, esatto. Vedi, una volta esatto. Che non ci sono io a intervistare, voi fate un casino. Bravo Riccardo, bravo. Che c'entro io? Con lui, perché, parli, perché parli del plurale e poi parli di me? E poi dici di lui. Perché se io conosco i miei polli. Perché lui contiene tanti programmi. Va bene, io sono quindi... un pollo, io sono un programma. Quindi, niente, non fatemi riassunti, datemi un voto complessivo dell'intervista. Come ti sei sentito oggi? Ma cosa vuoi? Per te non c'entri nulla. Riccardo, come ti è sembrato il nostro ospite? Io non devo votare gli ospiti. Devo fare solo cosa domande. Stai dicendo? Vabbè. Gira... Cosa stai dicendo? Tu cosa ne pensi? Anch'io stessa cosa. Che... Come fai a dare il voto all'ospite? Vabbè, scusa. Pensavo, è andata bene fino a un certo punto. Una bella esperienza? No, vabbè. Probabilmente no. Tanto non farà più giochi nella sua vita, come dice di solito. Ma non lo so, secondo me è il più promettente in Italia lui, eh. Vabbè, lo dice uno che si chiama come lui, però non è lui. Scusa, cioè, Pietro è un nome comunissimo, avrò tanti ononimi in giro. Tu ti chiami Vario Punk, è diverso. No, non, all'anagrafe no. Se mi chiamassi così all'anagrafe, mia moto non potrebbe denunciarmi, che credo. Vabbè. E io chiuderei qui l'episodio, siete d'accordo? Va bene. Ok. Sono tutti d'accordo, ok. Saluta. Un saluto da Claudio Turri. Il penultimo. Allora salutiamo solo io e te. Un saluto da Risca 4.0 in via di aggiornamento. Aggiornamento in corso in 3, 2, 1. Ciao a tutti. Non ti sento. Come non mi senti? Ok, ora ti sento. Ciao a tutti, l'ho detto, l'ho già detto. Perché devo ridirlo ancora? Un saluto da Gira93. Ciao a tutti, grandissimi. Un saluto da Miyamoto, non so come, Asakata. Io dove sono? Aspetta, allora. Miyamoto è prima di te, sei il penultimo. Un saluto da, non mi ricordo, Claudio Turri. Scar the Pumpkin. Dobbiamo cercare di aiutare gli operai tedeschi sottopagati, ricordatevelo. Un saluto dal vice direttore esecutivo. E un saluto da me. Ciao a tutti. Booyah.